E ritorniamo in onda dopo un'estate che è stata un'estate, senza se, senza ma, boh, senza qualità. Sto improvvisando qualcosa che non ha assolutamente senso, però aveva anche rima, quindi potrebbe avere un senso. Sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, e queste sono solo nuvolette. Torniamo a parlare di fumetti e cultura pop sulle frequenze digitali di Radio Archimede. Oggi partiamo con qualche minuto di ritardo perché dobbiamo dire che siamo dei pigroni allucinanti, diciamo così, non diamo la colpa al posto dove abbiamo mangiato. E chi guarda in webcam vede già alla mia sinistra un ospite che ha una centratissima maglietta con Paperino e affisso sul cuore, quindi direi che è anche una scelta. Bruno Sarda, sceneggiatore Disney e creatore di Indiana Pips. Grazie, ciao Bruno, a tutti. Di essere qui. Ciao. È un piacere averti portato perché con te possiamo chiacchierare di narrazione a fumetti e di quanto siano state importanti le storie Disney per la formazione di tantissime persone, anche tanti bambini oggi. Sì. Il tuo legame con queste storie, oramai dopo tanti anni di sceneggiatura, è quasi solo da sceneggiatore o ti diverti ancora a leggerle? Ma io mi diverto ancora a leggere, tant'è che infatti mia moglie mi chiede sempre come faccio, però quando vado a dormire, io per rilassarmi continuo a leggere le storie di Topolino. Quindi vuol dire, è sempre una cosa che ormai è diventato un lavoro, ma è sempre una cosa che ci fa con passione. Beh, quindi... molto bello, sei riuscito a conservare quell'entusiasmo. E quindi non vedi, non ti capiti di leggere, ma questa storia chi l'ha scritta? L'ha scritta bene, l'ha scritta male? Non subentra il professionista nella lettura? No, quando leggo mi rilasso come quando ero un lettore di 10-12 anni. Beh, caspita, aver conservato questo piacere della lettura direi che è merito anche di chi scrive, è merito dei personaggi in sé che sono immortali, sono qualcosa. Beh, di... i personaggi sono splendidi, praticamente con personaggi di Disney ti permettono di scrivere un sacco di storie, di utilizzarli. Mi ricordo che c'era Marconi che... l'ex caporedattore che diceva che abbiamo a disposizione i migliori attori, lui a quel tempo si parlava di Alberto Sordi, abbiamo a disposizione i migliori attori su cui gli possiamo far fare tutti i film che vogliamo. Certo. Effettivamente ha ragione, perché personaggi con la personalità, la psicologia di Paperino, Topolino, Paperone, cioè sono personaggi molto spessi, diciamo, che sì, li si può far fare interpretare qualsiasi tipo di film. Poi il film dobbiamo sceglierlo noi di volta in volta. Sì. Ecco. Però si sono, secondo me, queste psicologie sono andate infittendosi negli anni, perché all'inizio Paperino, chiacchieravamo a pranzo sul Paperino dei DuckTales, tirato via dalla serie. DuckTales era questa serie animata degli anni 90 in cui c'erano solo Zio Paperone e Cuico qua, e in realtà sono adattamenti di storie di Barks. Però forse nelle storie di Barks originali Paperino c'era, invece qui non c'è. Ma perché secondo me è anche stato giusto così, perché un conto è il linguaggio del fumetto e un conto invece è il linguaggio del cartone animato. Il cartone animato utilizza dei sistemi narrativi diversi da quelli del fumetto. Intanto il cartone animato ha delle gag visive che il fumetto non ha. Quindi fare dei paragoni tra il fumetto e il cartone animato secondo me è sbagliato, perché se si fa un fumetto e vuole fare, a volte succede che magari, faccio sempre questo esempio, se una partita di calcio molto buffa tra personaggi disneyani viene fatta su un cartone animato è divertente e funziona bene, non c'è nulla che stufa di più che una partita di calcio sul fumetto, perché è statica, è ferma, non ci si muove, quindi bisogna utilizzare le cose che servono o per il fumetto o per il cartone animato. Diverso linguaggio necessita di diverso tipo di umorismo, diverse gag, diversi scamotaggi narrativi. Sì. Riguardo ai DuckTales pensavo proprio che Paperino, soprattutto per gli americani, era quello delle Merry Melodies, anche di quelle moderne, però comunque un Paperino molto fisico, molto poco loquace, perché aveva questa parlata... Sì. Quasi incomprensibile. Ma infatti bisogna dire che Barks ha recuperato moltissimo il personaggio di Paperino reinventandolo, perché praticamente se noi vediamo il Paperino dei cartoni animati divertentissimo, bellissimo, però non ha nulla a che vedere col Paperino dei fumetti, era semplicemente nel cartone animati Paperino che è di fronte a dei problemi di vita quotidiana, dal tostapane che non funzionava, l'elettrodomestico che perdeva acqua, qualsiasi cosa. E lui, di fronte a questi problemi, no, c'erano situazioni buffe e divertenti. Nel fumetto si fa interpretare invece a un periodo delle situazioni anche avventurose, non certo. Solo divertenti. Lì è merito di Basque, ha creato tutto un universo dei paperi. Certo, poi certo. Chi è venuto dietro a Barks nel fare le storie, non certo a cartone animato. Quindi probabilmente nel cartone animato Paperino deve essere un personaggio ingombrante, perché intanto ingombrante come personaggio, perché ci si aspettava comunque qualcosa da lui. Esatto. E nel cartone animato in realtà non aveva mai fatto nulla di particolare, quindi probabilmente hanno preferito utilizzare i personaggi dei nipotini, che piacciono comunque ai bambini, perché comunque certo. Il cartone animato secondo me come target erano persone certo. Sotto i 10 anni. E comunque è più che sufficiente Paperone, perché era quello che esatto. Serviva a no, il personaggio, la lead storia, figure, il personaggio adulto è Paperone nei DuckTales. Come avevano trovato questo sistema, lo avevano mandato in marina, mi pare. Sì, esatto. Che chissà, se bisognerebbe sapere se loro erano inventati proprio perché alla casacca da marinaretto allora. Ma probabilmente avevano cercato di esatto. di abbinare le due cose. Esatto, di abbinare le due cose, però era stata un'invenzione comunque. Aveva arricchito tantissimo il personaggio di Zio Paperone, per chi lo guardava il protagonista era comunque Zio Paperone, che ed è bello scoprire che poi c'è attualizzato all'epoca, chiaramente le storie di Barks erano degli anni 50, DuckTales era degli anni 80, però c'erano molti elementi ripresi sì. E riadattati. Barks, comunque Carl Barks, per chi non lo sapesse, comunque considerato probabilmente il per il fumetto Disney l'autore più importante. Ma, dal punto di vista dei paperi, cioè nel fumetto Disney distinguiamo le due famiglie, la famiglia okay. Dei topi e la famiglia dei paperi. La famiglia okay. Dei topi è la prima che è uscita e che ha cominciato subito a dare un taglio avventuroso alle storie, e lì certo. È Gotfredson che l'ha fatto negli okay. Anni 30. Poi Paperino è sempre stato una spalla, una a volte spalla, certo. A volte faceva parte anche del mondo dei paperi, ci sono delle belle storie di Goffes in cui c'è sia Paperino che Pippo assieme, non so, Topolino a casa dei fantasmi, che poi hanno anche uscito il cartone animato. Ah, sì. Ma poi è dopo gli anni 40 che Paperino acquista proprio un taglio di personaggio principale, sì. Nel momento in cui Bass gli fa delle storie ad hoc per lui, e poi siccome solo Paperino non bastava, ha creato ex novo dei personaggi lui, tutto l'universo da Zio Paperone ad Amelia ad Archimede Pitagorico a Nonna Papera. Quindi Bass è importantissimo, certo. Per il fumetto e per il mondo dei paperi, perché okay. È lui che ha okay. Ideato tutto. Esatto. E tu da lettore e poi come autore, visto che c'è questa dicotomia Topolino contro Paperino, hai sempre preferito Topolino oppure Paperino? Ma io ho sempre amato entrambi i personaggi allo stesso modo, se vogliamo okay. Dire un po' come dire se vuoi bene il papà o la mamma, entrambi insomma okay. No? Ecco. Ma perché c'era un po' questa vulgata per cui viva Paperino, viva Paperino. Sì, però ecco, c'è un discorso che nel momento in cui poi sono passato dall'altra parte della barricata, non più lettore ma che può scrivere le cose, allora a questo punto è la distinzione che se vuoi fare una storia più buffa più umoristica, e allora ti viene spontaneo utilizzare Paperino. Ok. Se è una storia magari più misteriosa, più enigmatica, allora ti viene più spontaneo utilizzare Topolino. Ok. Tante volte mi è successo, ma più di una volta, di iniziare una storia, di crearla con Topolino e di accorgermi che forse funzionava meglio con Paperino e viceversa. Ok. E a volte succede che magari per prima cosa tu hai in mente un'idea, poi la sviluppi e sviluppi con certe situazioni, e a un certo punto mentre vai avanti magari trovi un intoppo mentre accade questa storia, ti chiedi ma se questa storia anziché con Topolino ci fosse Paperino come funzionerebbe? Poi chiaramente vai indietro, cambi delle cose, cambi certo. cambi finché ti accorgi che quella storia è venuta molto meglio con Paperino, o ripeto, o viceversa, mi è già successo più di una volta. Ok. Grazie per averci portato subito nel dietro le quinte, e ci sono molti discorsi che poi svilupperemo. Adesso lanciamo la prima canzone, sistemiamo la connessione internet, visto che forse potremmo anche avere qualcuno che ci fa delle domande. E Alessandro in regia, gli chiedo di mandare la prima canzone. Per ripartire, ripartiamo un po' rock oggi. Quindi avevo preparato questa playlist rock anche abbastanza moderna, nonostante i miei gusti che sono quasi sempre abbastanza vintage. E quindi partiamo, come non partire con i Muse. E rieccoci in onda con Sono Solo Nuvolette, io sono sempre Fulvio Gatti. Per chi vuole interagire, sono riuscito a far funzionare la parte digitale, che sono sempre un po' digital caotico e non sempre funziona, ma siamo su sonosolonuvolette@gmail.com se qualcuno vuole scriverci. C'è un account Twitter Fulvio The Cat, c'è una pagina Facebook Sono Solo Nuvolette, c'è un SMS per la diretta, funziona Alessandro l'SMS per la diretta, che è 345 84 30 228, ripeto 345 84 30 228. Abbiamo il piacere di avere qui Bruno Sarda per parlare di fumetto Disney. Bruno, sei considerato conosciuto all'interno degli autori Disney per aver creato un personaggio che si chiama Indiana Pips. Sì. Che è un po' il controltare di Indiana Jones dell'universo Disney. Vuoi raccontarci com'è nato il personaggio? Ma dunque, tutto è nato da quando, parecchi anni fa, ho messo 27 anni. Vabbè. Nell'88 e c'era, mi sono visto con il redattore dell'epoca, Massimo Marconi, e mi diceva che mancavano delle storie che permettessero a Topolino di muoversi dall'ambiente cittadino. A quell'epoca le storie di Topolino in realtà si facevano un centinaio di storie all'anno, quindi il Topolino era composto da due storie italiane, che era la prima e l'ultima, e invece all'interno c'erano le storie brevi, le storie di Cipe Chop, Fratel Coniglietto, Zecchiere Lupo, oppure, ma anche delle storie, non so, le storie del Papa Sera ma corte. Qui c'erano storie brasiliane con Paperino, Paperoga. Perché l'Italia, nel mondo di Disney, dove si scambiavano, dove ancora attualmente si scambia i fumetti da una nazione all'altra, l'Italia si era specializzata nelle storie lunghe, mediamente quelle attorno alle 30 pagine. Okay. Ed era la prima e l'ultima. Praticamente le storie Disney all'anno, quindi erano un centinaio, facciamo la maggioranza erano quelle dei Paperi, una trentina di quelle di Topolino. Di questa trentina che si facevano, ci si lamentava che Topolino era un po' imborghesito, nel senso che era sempre storie cittadine, se c'era il giallo, lui il basettone, oppure se si muoveva andava nel laghetto vicino a casa, in montagna. Ma storie di più ampio respiro non c'erano, anche perché rispetto ad esempio Paperone, che va al pretesto della caccia, la ricerca del tesoro, che lo spinge dappertutto, in Topolino mancava un po' questa cosa, perché Topolino non ha un interesse economico, lui tutto quello che fa lo fa perché, cioè, non vuole mai arricchirsi. Esatto. Mancava un po' un qualcosa che lo portasse fuori. Perché questi personaggi quasi sempre hanno bisogno di una motivazione. Il personaggio ha la motivazione forte che ti scatena le storie. Sì. E in quel caso Topolino non l'aveva, quando invece... Quando invece, ad esempio, Paperone c'era sempre. Esatto. Sempre un motivo per cui deve andare dall'altra parte della terra per guadagnare un qualcosa. Vuoi anche perché immagino che, trattandosi di storie lunghe, ma comunque brevi, 30 tavole, la premessa della storia è nelle prime una due tavole, nelle primissime tavole deve essere... Sì, poi però bisogna poi spostarlo, deve esserci un pretesto, per fargli fare un'avventura nella giungla amazzonica. No, ma infatti immagino tu sceneggiatore non devi perdere troppo tempo nello spiegare perché il personaggio parte. No, il personaggio deve partire di suo. Deve partire di suo per la psicologia sua. Esatto. Ecco. E a quel punto allora mi ha detto, ma poi c'è che devi trovare un modo per far andare, fa fare delle storie più avventurose a Topolino. Allora io ho pensato a un personaggio, già inizialmente avevo pensato a un personaggio che potesse durare non per una storia sola, ma per più storie, tant'è che ho fatto due storie di Indiana Pips, definendo un po' questo personaggio, che era un cugino di Pippo, un cugino bizzarro, aveva alcune fisse, alcune manie, che era quella punta, ad esempio, di fargli mangiare, che mangiava queste palline di liquirizia, le negritas. Okay. E si chiamano negritas, ma che secondo me è una negritas, ma perché all'epoca c'erano le morositas. Parlo di probabilmente molti non le conoscono, ma 30 anni fa c'erano delle liquirizie gommose, si chiamavano morositas. No, ci sono ancora, credo sono che siano ancora sul mercato. Ah, sì, no, abbiamo un giovine in regia E quindi che conferma. Avevo parodiato questo. Ok. Ho parodiato questo nome, quindi anche perché ogni tanto, se c'è un personaggio d'ufficio, bisogna dargli alcune connotazioni. Quella che lui diceva, amavo queste palline di liquirizia, che mi sono servite, perché tante volte con queste palline di liquirizia servivano a risolvere certe situazioni, perché è solo lui che le mangia. Esatto. E sono cattivissime, però lui le adora. Quando le mangia qualcun altro non va. Tante volte, ad esempio, le utilizza anche per dare da mangiare a, se è inseguito da una belva o da un coccodrillo, lo mangia questa liquirizia e schifati se ne vanno via, no? Sì. Ecco. E comunque avevo dato tutte queste caratterizzazioni al personaggio e sono uscite la prima storia, Topolino e i predatori del tempio perduto, una storia in due puntate disegnata da Luggetti. E poi era invece una storia, Indiana Pips e la città di ghiaccio, anche questa in due puntate. Avevo pensato di fare due puntate perché fosse più, sì, più tosta la storia, insomma. Okay. E questa volta è disegnata da De Vita. E lì è stato un po' quello che mi ha aperto gli occhi di dire che posso utilizzare questo personaggio più volte, perché De Vita lo ha veramente cambiato un po'. Se voi vedete la prima storia che è uscita, mm-hmm, Indiana Pips, forse anche colpa mia che non l'avevo spiegato bene nel, mm-hmm, dettaglio come doveva essere questo personaggio, però è una storia abbastanza buffa, mm-hmm, la prima che ho fatto. E allora probabilmente la scelta di un disegnatore, di disegnatrice, la Uggetti, una brava, ottima professionista, che però fa un disegno più buffo. Infatti l'Indiana Pips che si vede in questa storia è completamente diversa da quello che c'è oggi. È un, okay, Indiana Pips che aveva intanto aveva il cappello leopardato, poi aveva un ricciolino, poi ha disegnato in modo goffo, non atletico come adesso. Sì. L'Indiana Pips che aveva fatto De Vita nella seconda storia era completamente diverso, in modo molto atletico. Il cappello fatto molto, il cappellaccio indiano classico, che adesso sì, lo vediamo, sì, nelle storie. Poi aveva trovato alcuni piccoli particolari che avevano dato un aspetto da duo indiana, anche sì, poi mantenendo il personaggio, ma che comunque sì, buffo, un pippide anche lui. Sì. I tre puntini di barba sì, sotto il mento, no? È una caratteristica indiana. Ma a quel punto ho detto, beh, con un personaggio così realizzato graficamente in questo modo, mm-hmm, beh, posso fargli fare anche altre, certo, storie. Allora da lì ho cominciato a proporre più storie, uh-huh, a De Vita piacevano, quando ho continuato un po' a farle io e De Vita, alcune volte c'erano anche altri disegnatori, comunque il personaggio ha cominciato a diventare più saldo, insomma, certo, no? E poi e da lì sono uscite. E c'era questa particolarità che ti sei ritrovato a usare Topolino come spalla a questo punto. A un certo punto cosa è successo? Che io avevo utilizzato Indiana Pips perché facesse da spalla a Topolino. Esatto. Alla fine è diventato che Indiana Pips è un personaggio autonomo. Esatto. E qualche volta Topolino e qualche volta non ce l'ha. Ormai sì, si fa. Sono, certo, tantissime storie in cui c'è Indiana Pips da solo, non c'è, sì, non è più caso, sì, che sia, sì, Topolino, sì, assieme. Sì, sì. E quando c'è Topolino, Topolino gli fa da spalla. Sì, o lui, sì, o adesso una storia che sto scrivendo in questo momento, ad esempio c'è Minnie che gli fa la spalla, okay, però appunto per variare ok, questa sarà già una particolarità, perché detto che probabilmente non puoi sapere quando, dove uscirà, perché è sempre molto complesso il calendario delle uscite, sì, di sì, sì, però questa è già una particolarità, quindi non hai ancora, senti di non aver ancora esplorato in così tanti anni tutti i lati del personaggio, provare ad accostargli altri elementi? Beh no, ma intanto una cosa del personaggio che mi fa piacere, tante volte alcuni mi dicono, ma quando esce una storia che non hai fatto te ma che lo fa qualcun altro di indiano, non ti dispiace? Ma io in realtà sono contentissimo, perché la cartina torna sole per vedere se un personaggio funziona e vedere se c'è qualche altro tuo collega che lo usa. Ah certo. Perché tante volte ci sono dei personaggi creati, però o se la si canta e la si suona da solo, se no non certo, il personaggio non viene vuol dire viene che fatto dato, gli hai dato spalle, invece viene fatto da altro. Nelle storie che sono adesso su Topolino, ma ce ne sono due o tre mie all'anno e ce ne sono 4 o 5 di altri miei colleghi, quindi certo, vuol dire come è diventato un personaggio che abbiamo utilizzato tranquillamente da tutti, certo, no? Ci sono storie che hai letto di Indiana Pips e ti ha sorpreso per l'utilizzo che ne è stato fatto, per qualcosa che ci sono i miei colleghi, sì, ne hanno fatte alcune belle, alcuni che hanno ripreso il personaggio di Giada, che era la fata di cui Indiana si è innamorato, uh-huh, e che l'hanno ripresa e l'hanno anche fatta bene questa storia. No, ma devo dire che i miei colleghi utilizzano il personaggio, lo utilizzano alla grande, anche perché in Disney sono tutti professionisti, quindi certo, sono tutti fare. Certo, certo, certo. Quanto lavoro richiede una sceneggiatura di una storia, diciamo, di 30 pagine? Ma allora, la mia prima sceneggiatura ho impiegato 2 mesi a farla. Ok. Era la prima, Amelia e la numero 1 Porta Sfortuna. L'ho fatta nel lontano 85. che devo fare, poi è uscita nell'87 perché poi okay. Ho di portarla eccetera, comunque mai, sono 30 anni che sto facendo queste cose e al momento, cioè, c'è la prima fase in cui si fa il soggetto, lo si manda in redazione per l'approvazione del soggetto, perché la redazione verifica se ci sono già altri che hanno lavorato su quel soggetto, se ci sono delle parti che non funzionano, e quindi c'è una collaborazione con, con la redazione per cercare di aggiustare il soggetto. No, mentre in cui il soggetto è provato, si parte con la sceneggiatura. Io oggi come oggi, nel momento in cui so che il soggetto è approvato, la sceneggiatura è meno una settimana, si fa, ma io adesso sono anche a casa, sono felicemente in pensione, quindi... ti è mai capitato di doverti autocensurare, però in senso positivo, nel senso prendere un personaggio Disney, anche un Indiana Pips, e poi dire questo però mi verrebbe da raccontare questa storia, ma forse non glielo posso far fare perché non funzionerebbe? Non necessariamente verrebbe censurato, ma anche è questione, penso che ci sia molto equilibrio nella scelta di ciò che può fare o non fare un personaggio in una storia Disney, e non sto parlando solo della censura. Intanto c'è un discorso che tante volte invece dobbiamo guardarlo a livello di, cioè, non la definirei censura, il fatto è che un personaggio ci si muove in un ambiente, in un ambito disneyano, e si sa che nell'ambito disneyano certi temi non si toccano, certe cose non si fanno fare ai personaggi, quindi non è censura, è semplicemente che paletti di quell'universo narrativo, dei paletti di quell'universo narrativo, giusto? E poi sì, tante volte capita che invece dici, beh no, però forse è più divertente se gli faccio fare questa cosa piuttosto che un'altra, ecco. Questo non ti viene in mente un caso in cui magari una storia poteva andare in una direzione? Forse hai troppe storie sulle spalle, ma non posso farti le... Ma è vero, non riesco a... Hai una quota, le contate? Ma allora, tra storie brevi, lunghe, diciamo storie lunghe, ho fatto un 350, 400, poi ho fatto un centinaio di storie, quelle da una tavola. Quindi ho superato le 500, se sommo le due. Quindi, ok, e quindi è giustificabile. Qualche volta che non... qualche piccolo, sì, che non capisco. Si focalizzi bene su qualche capisco. Cosa. Capisco. Poi dopo cerchiamo di andare allora a focalizzarsi su qualcos'altro da produzione, e magari su Paperinik, che è un personaggio sempre molto amato. Sì. Però adesso lancerei la seconda canzone, e qui abbiamo pescato. Avevo in mente una rarità, ma non l'abbiamo trovata, quindi andiamo negli anni... Dovrebbero essere tardi 60 o primi 70, ne parlavamo... a pranzo, è un ritmo che canticchiavo, un gruppo che si chiamava Uriah Heep, e il pezzo fa così. Ed era Gypsy degli Uriah Heep, perché ci è piaciuto pescare questo brano di cui abbiamo parlato a pranzo, perché Bruno li hai visti dal vivo e facevano questo vivo, pezzo qua. L'ho visto 38 anni fa con un nuovo Torino, e la band che li precedeva, che era stata abbastanza fischiata dal pubblico, perché tutti dicevano, basta adesso, questa banda, band che era stata fischiata, era la premiata fuori dagli Marconi, che un anno dopo, quando è ritornata a Torino, aveva fatto il pienone, perché chiaramente era band famosissima e bravissima. Però. Capita a volte, una giovane band, di aver scoperto una giovane band non l'aveva apprezzata subito. Infatti. E invece parlando, tu hai scritto anche molte storie di Paperinik. E questo meccanismo, parlavi di questo meccanismo Topolino Paperino che provi a sostituire il protagonista, ma sì, si può fare anche con Paperinik e Indiana Pips? In un certo senso sono le due versioni più ad ampio respiro, più che ti permettono storie più avventurose rispettivamente di Pippo e di Paperino. Ma dunque, che mi ricordi, io non ho mai scambiato Paperinik e Indiana Pips nelle storie, non è mai successo. Anche per Paperinik c'è questo aspetto supereroistico, anche se un supereroe a livello disneyano, che è diverso poi dal PK che hanno fatto poi dopo. Un elemento, per esempio, che la prima parodia dei Predatori dell'Arca Perduta in realtà aveva Paperinik come protagonista, che era stato pubblicato anche nei classici Disney. Quello l'ha fatta Bruno Concina. Ed ha funzionato anche come parodia. Quindi era stranissimo calare comunque Paperinik nel contesto di una parodia di Indiana Jones. Ma io poi avevo fatto poi la parodia del film Indiana Jones, esatto, il primo che è uscito, ecco, esatto, anche se in realtà nelle mie intenzioni Indiana Peace poi non è mai stato utilizzato come parodia di Indiana Jones, ha preso solamente il nome, ma in realtà lui si è più ispirato a un Martin Mister bonelliano, dove praticamente i vari misteri che ci scondono il mondo, da Tunguska al lago di Loch Ness, che spade magiche, qui non è più ne metta, vengono interpretate e risolte in chiave disneyana. Okay. Poi io dove mi sono ispirato di più al personaggio di Martin Mister, tant'è che in una storia di Indiana Peace ho cercato di fare un cameo, come si dice, cioè in cui appariva un Mr. Martin in televisione, che è un programma che lui seguiva moltissimo, e questo Mr. Martin a un certo punto veniva interrotto durante il programma televisivo dalla sua governante, che era il governante Java, che era Java proprio con le fattezze un po' scimmiesche. Vabbè, questa è una frecciatina all'amico Castelli, un piccolo omaggio. Ma è un omaggio, perché veramente Castelli è un grande. Esatto, quindi legami sotterranei. Quando uno fa la parodia di qualcosa è perché ama questa cosa. Quasi sempre la parodia è un omaggio, È un omaggio, non certo, è mai... Certo. E quindi legami sotterranei inattesi tra il fumetto bonelliano e il fumetto Disney italiano. Sì. A te non hai mai pensato di proporti alla Bonelli la tua casa... Più comoda come forma narrativa era la Disney? No, io qui adesso sveliamo una cosa, nel senso che io inizialmente, da bambino, è un lettore disneyano, poi forse come tutti quanti i bambini, a 13-14 anni lo lasciano un tempo, adesso i bambini anche a 10 anni lo smettono magari di leggere. È diventato più complessa l'avvicendamento dei lettori. Ecco. No, avevo smesso, abbandonato Topolino e avvicinandomi al mondo Bonelli, quindi Tex, Zago, per cui nel momento in cui ho cominciato a scrivere, provare a pensare a delle storie, ho pensato inizialmente a delle storie per Tex, per Zago, e ho mandato un paio di cose anche alla Bonelli. La risposta, ok, va bene, apprezziamo quello che scrive, però non va ancora bene, però segua, eccetera. Nel frattempo era venuto però il redattore di Topolino qua a Torino, Franco Fossati. Allora ho detto, qui poi è l'occasione, mentre c'è, può fare qualcosa anche a lui, perché combinazione... Vorrei chiederti l'anno, però ho paura di... Era l'85. Un paio d'anni prima, non sapendo che regalo fare... Non volevo dipingerti più vintage di quello che sei, quindi... Non sapendo che regalo fare a una mia cuginetta, siccome amavo molto leggere Topolino, avevo fatto l'abbonamento a Topolino. Okay. Una cosa capitava, quando andavo a trovarla, tante volte... avevano la pila di Topolino, ma ne prendo un po', e ho ricominciato a leggere Topolino dopo 7-8 anni che l'avevo abbandonato, e quindi avevo ripreso la lettura di Topolino. Quindi tante volte mi dico, se non avessi fatto questo regalato, questo abbonamento, chissà se adesso mi troverei qua a parlare di storie che faccio. Si chiama karma fumettistico, hai fatto un bel regalo a qualcuno e poi... Quindi rileggendo le storie di Topolino mi sono anche piaciute e ho detto, io preferisco le storie d'avventura, però proviamo anche le storie di Topolino. Esatto. E ho provato e poi mi sono appassionato subito anche al mondo disneyano, di nuovo al mondo disneyano, perché sono un grande appassionato ragazzino. E da lì è cominciato il tutto, insomma, il primo anno ho fatto 2-3 storie, il secondo anno 5, poi 7, poi infatti gli anni dopo in cui ne facevo anche 18-20 all'anno, insomma. Parlando invece di Paperinik, qual è stata la tua prima storia e se è stato naturale, ti è stato proposto di scrivere per Paperinik o avevi già in mente? Intanto in Disney... abbiamo parlato prima di 500 storie, mi sarà capitato un paio di volte in cui mi hanno detto l'argomento su cui volevano che facessi una storia, altrimenti le storie in Disney c'è ampia libertà, quello che... E la storia di Paperinik è stata la prima mia pubblicata, perché sullo stesso numero di Topolino sono apparse due storie mie. una di Topolino è un prestigiatore e l'altra appunto Paperino è il rivale Paperinic, che era stata disegnata da Cavazzano, perché a quell'epoca si usava fare un omaggio al nuovo disegnatore che entrava, facendo disegnare la sua prima storia da un grande disegnatore. Quindi ho avuto l'onore di aver avuto Cavazzano che mi ha disegnato la mia prima storia, in cui Paperino è il rivale Paperinic, era praticamente una storia classica che ricorda un po' le storie di Superman e l'identità segreta, no? In cui Paperina si è talmente infatuata di Paperinic che non vuole più vedersi con Paperino. Allora Paperino è costretto a demolire il personaggio di Paperinic per poter continuare a uscire con Paperino. Esatto. Quante gag ti venivano in mente su quello? Hai dovuto, immagino, scegliere, perché di per sé le gag possibili di un Paperino bistrattato dal suo alter ego, beh, erano tante, però adesso sono passati talmente tanti anni, no, che... vabbè, immagino comunque fossero di più, comunque... e poi a un certo punto hai scelto le migliori. Sì, e... ma il lavoro di, cioè il Massimo Marconi diceva sempre che il lavoro del sceneggiatore è quello, non è quello tanto di scrivere, ma del togliere, cioè devi sempre togliere delle cose. Dopo che hai tolto, allora esce fuori la storia. Certo. Effettivamente è così. Tu hai da prima hai il foglio bianco, ma poi però in questo foglio cominciano a uscire poi troppe cose, e poi devi scegliere e togliere per lasciare l'essenziale. Ecco. A maggior ragione nel formato di storie Disney, che qua hai 6-7 vignette a tavola. Sono 6, se non 5. Sì, quando si usa la vignetta doppia, esatto. Quando sempre si vuole fare in un ambiente dove c'è un paesaggio, un ambiente, esatto, dove sono due che parlano, tante volte si usa, esatto, la vignetta doppia. Ma poi di per sé dà anche più respiro alla lettura, quindi sì. Però a quel punto lì hai comunque un numero limitato di azioni, perché poi quasi sempre ogni vignetta è un'azione. Di azioni o di variazioni di situazioni che puoi mettere, quindi... Sì, e poi c'è anche da dire che un tempo si diceva che le storie italiane hanno la prima e l'ultima e c'erano 30 pagine che tranquillamente si potevano utilizzare. Oggi come oggi, il Topolino è fatto tutto dalla storia italiana, in cui ci sono tanti che vogliono fare una storia, fare delle storie di Topolino, e quindi cercano di fare uscire nello stesso numero di Topolino più storie possibili, non so, certo. Quindi ci sono 5-6 storie. Se si fanno delle storie troppo lunghe, chiaramente si riduce il numero delle storie e il numero anche delle persone che collaborano. Quindi se prima si potevano fare anche delle storie 30-31 pagine, adesso si cerca di farle di ridurre il numero, quindi certo. Bisogna cercare di essere molto asciutti nel racconto. E quindi questo discorso di togliere le cose che non servono, è ancora più importante. Sì, è vero. Ok, corriamo, vedi, l'ora di trasmissione sembra tanto, poi in realtà passa velocemente, è già ora della terza canzone, poi sarebbe divertente vedere se tornare a continuare a parlare di Paperinic, penso ci sia parecchio, o di scrittura in generale. Adesso andremo fuori onda, ci consulteremo, troveremo l'argomento perfetto per gli ultimi 10 minuti di programma, e intanto mentre voi vi ascoltate gli Audioslave, perché avevo preparato una scaletta di rifacci e quindi... Oggi, per ripartire dopo le ferie, Audioslave Coaches. Ultimo blocco di Sono sulle nuvolette di oggi, in cui abbiamo parlato piacevolmente di personaggi Disney, narrazione a fumetti, limitatamente ai personaggi Disney, che va molto di sottrazione. L'ospite è Bruno Sarda, veterano, si può dire veterano, fa pensare un po' a uno di guerra, veterano no, Disney. No, beh, veterano, si dice. Ma veterano, maestro, venerabile maestro no, Disney, mi sembra un po' troppo, no. Vista soprattutto la persona che sei, la persona molto, molto umile, molto entusiasta che sei nel raccontare le cose. Il maestro sembra un po' un qualcosa di ampolloso. E parlando di maestro, di qualcuno che ha questo status, secondo me ci ride anche sopra, di grande maestro, di grande espertone, che è Umberto Eco. Parlavamo fuori onda, tu hai fatto ben due parodie Disney con personaggi Disney da due romanzi di Umberto Eco, i due più famosi. Sì, ho fatto la parodia di Il nome della rosa, che è diventato Il nome della mimosa, e Il pendolo di Foucault, che è diventato Il pendolo di Ecole. Infatti io credo che per fare la parodia ho letto ben due volte Il pendolo di Foucault, penso di essere l'unica qui persona a raccontarlo, quindi... penso di essere l'unica persona vivente che ha letto due volte, ma no, a me è anche piaciuto, per carità, sì, però sì. Dico, forse due volte, non so quanti sono, come si letto. Fa di un magma come Il pendolo di Foucault adattarlo in una storia di Disney? Allora, in realtà, mentre nel nome della mimosa ho seguito abbastanza l'intreccio, perché sì. C'era più intreccio giallo. Tra l'altro, entrambe con Topolino e Pippo? Entrambe con Topolino e Pippo. Okay. No, la prima con Topolino e Pippo, la seconda con Paperino e Paperoga. Allora, la prima con Topolino e Pippo, e dove? La, il monastero, per motivi ovviamente disneyani, non è un toccato argomenti religiosi, era diventata una università. Quindi un ambiente di un'università inglese dove il contendere non era il libro della rida di Aristotele che c'era nel libro di Umberto Eco, ma era un libro degli scacchi dove c'era uno dei professori che non voleva assolutamente che si trovasse questo libro degli scacchi, che chi lo leggeva diventava uno scacchista imbattibile, perché doveva essere non si doveva conoscere questa cosa, e quindi ho mantenuto lo spirito del libro di Umberto Eco, era mantenuto, sì, cioè il fatto che si voleva nascondere il sapere, no? Ecco. Però cambiando alcune cose, quindi loro sono andati con la macchina del tempo in questa università inglese, e poi anche lì alla fine c'è comunque l'incendio, cioè, ci sono alcune cose che... Ma quindi c'è la macchina del tempo, ci sono i personaggi di Zapotec e Marlin? All'inizio Zapotec e Marlin, sì. Poi invece nel secondo libro del pendolo dei Call, quello che ho mantenuto semplicemente il discorso che come è presente nel libro di Umberto Eco, che c'è un mistero. Ci sono una serie di fissati che sono convinti che i protagonisti del libro conoscono determinate cose, loro cercano di trovarli per fargli dire qual è questo mistero. Mentre in realtà non se lo sono inventati. Okay. È lo stesso Paperino, che hanno dovuto inventarsi qualche cosa, perché come giornalisti del Paper Sera si erano inventati una balla colossale. Okay. Poi gli altri hanno creduto che fosse vera, e quindi da lì nasce tutto. Ma il personaggio di Paperoga, al solo metterlo, aggiunge dell'anarchia, immagino, una storia. Sì, Paperoga da solo. Però Paperoga funziona bene. Non tanto da solo, ma deve essere assieme ad altri. Allora ho creduto lì per contrasto fa scattare un sacco di cose. L'ho utilizzato tante volte. E poi Paperino, Paperoga e Gastone sono fantastici. Fai il trio. Se sono da utilizzare solo qualche volta, chiaramente. Però, ad esempio, quella che forse è la storia che io amo di più in assoluto. È Tre Papi e un Bebè, che anche qui è una parodia del remake Tre Scapoli e un Bebè. Sì, questi tre papi alle prese con una neonata, una paperetta. Sì. No? Che per una serie di vicissitudini, insomma, si trovano in una casa di montagna e si trovano davanti alla porta il cesto con una paperetta, no? Poi anche lì c'è una trama gialla, eccetera. Poi c'è una serie di gag, battute veramente, che io trovo divertenti. So che sono piaciute anche a... Poi quando viene pubblicato, perché vado anche su Paper Sera, escono fuori dalle... È stato apprezzato. Una menzione comunque per i ragazzi del Paper Sera e Indax, che è questo archivio di storie. Sì, questo è un lavoro eccezionale. Un grande lavoro che hanno fatto. Vengono catalogate costantemente le uscite, le storie Disney anche per autore. C'è un lavoro pazzesco. Ma mi diverte questa cosa di Paperino, Paperoga e Gastone, personaggi di commedia, perché in realtà tante volte le storie Disney sono avventurose. Questa è una commedia. Oserei dire per adulti in senso buono, nel senso del rapporto, delle gag, di tutta una serie di gag, però del rapporto, dell'inadeguatezza di gestire una situazione che in questo caso è un nasceva da lì, ma lì effettivamente quando tu mi dicevi che ho dovuto togliere delle gag, è vero, perché me ne venivano a centinaia, insomma, no? Anche di divertente. Una che mi viene in mente è che a un certo punto, perché dovevano far addormentare la bambina, come fanno? Allora dicono, forse manca la figura materna. Allora dicono, povero, che tu c'hai i capelli lunghi, tutto dati. Allora la vestono da tata, cioè gli mettono da donna, no? La veste da donna. Nel frattempo c'è la Paperina che non vedeva più. Sapeva che Paperino era in montagna e gli fa l'improvvisata. No, dice, andiamo a trovare Paperino. E vado, Paperino apre e accanto a Paperino c'è Paperoga con la paperetta in mano. E se solo si andiamo bene, ma villanzone, lo scaffone si andava via. E sono una scena che me la trovo molto divertente. E che forse non so se oggi uscire, potrebbe uscire un pezzo di questo genere. Io lo trovo molto gabbato comunque, però è stato molto divertente. Però è sempre stato un po' anche tutta la parte familiare nell'universo Disney è sempre stata un po' sfumata. Questa cosa che si chiama zii e nipoti, ma i figli. Però. Poi è stato anche reso magistralmente bene perché qui aveva disegnato De Vita. Ah, ok. E quindi è molto, molto divertente questa sequenza, insomma. Il genere della parodia, dicevamo, è un omaggio. E tu ti sei, negli anni, ne hai scritte parecchie parodie. Tanto che le grandi parodie era anche una collana. È una collana, sì. Infatti sono state diverse di storie mie che sono state una grande parodia. Cioè, ad esempio, poi quella famosa, cui sono anche molto legato, è I Promessi Topi, che è uscita da tre puntate, in cui ho rifatto I Promessi Sposi. È uscita anche I Promessi Papi, però se voi confrontate le due storie sono completamente diverse comunque. Sì. Non c'è soltanto che uno c'è Paperino, l'altro c'è Topolino, sono proprio delle cose molto diverse. Sì, ecco. Sì, beh, credo che un conto il classico di Mazzoni, poi nel momento in cui ci cali i personaggi, cosa vuoi fare, nella direzione in cui li vuoi portare. Ad esempio nel mio c'è la peste, cioè ogni volta io mi trovo di fronte a degli argomenti trattati da Mazzoni che devo farli in chiave disneyana. Allora, okay. La peste è diventata la pestifera nipotina del governatore spagnolo di Milano, che tra le sue fisse era quella che voleva far mangiare i dolci a tutti quanti anziché il pane, al che mi sono collegato con l'assalto al forno, okay. Che i milanesi stupidi volevano andare a mangiare il pane. Okay, no? Okay. L'innominato era diventato l'innominabile, perché era uno che portava una sfiga tremenda, okay. Solo pronunciare il suo nome, quindi era diventato l'innominabile. Anziché il nominabile. Questa me la ricordo, adesso che l'hai detta mi ricordo di averla letta. Ecco, allora. Ecco. Sì, sono uscite quasi tutte su Topolino, immagino, originariamente. Su Topolino, sì. E poi sì. Però hanno avuto parecchie ristampe, si possono molte ancora ristampe. Trovare... Sì, si trova, ad esempio Messi Topi l'hanno ristampato un sacco di volte, ecco. Okay. E poi a volte la rivede ancora nei grandi classici, nei classici, però tante volte hanno uscito proprio nei libretti, ecco, hanno fatto... C'è una storia che ti sarebbe, un classico che ti sarebbe piaciuto parodiare e non hai mai avuto occasione magari? Ci sono alcuni classici che mi sarebbe piaciuto fare, che però non hanno già fatto altri, quindi sono certo. Un po' per i sposi c'è stata la possibilità di farlo in modo diverso, ma altri magari è più difficile. E tra l'altro le grandi parodie proseguono, per esempio Mottura ha appena disegnato il Moby Dick. Moby Dick, bellissima, poi quella del Jake e Mr. Hyde, esatto. Bellissima. Stanno... Io con Di Stevenson avevo fatto la freccia pera, anziché la freccia nera, anziché tirare delle frecce, tirano delle pere marce. Che è un bel modo per rendere qualcosa di comunque. Sì, ma graficamente almeno è so bene. E mi ricordo anche questo da lettore. E il problema tante volte se non li hai. Non c'hai ragionato nelle rete da adulto, certe cose rimangono impresse e però poi non associ. Adesso che mi hai citato la freccia pera mi ricordo di averla letta, quindi quindi altri classici, un classico che ti piacerebbe oppure che ti sarebbe piaciuto però era già stato fatto da altri? Al momento non mi viene. Una chicca che posso dire adesso è che quando avevo fatto la parodia del libro di Eco, del nome della mimosa, è uscita buona, in contemporanea col salone del libro di Torino e c'era Eco presente. Okay. Allora sono andato da lui con la storia per farmelo autografare. Okay. È uscito e lui non ha il corrente, non ha detto ma che bello, è stato molto contento, sono molto felice di questo. Ho detto una massima da Umberto Eco, molto bello, perché è molto più difficile finire su Topolino piuttosto che sulla Treccani, perché sulla Treccani chiunque inventi una vita qualunque ci finisce solo, ma per su Topolino deve essere veramente un personaggio importante. Ok, è onore al merito. È stato... gli è piaciuto. Beh, caspita, onore e merito comunque a Bruno, che tu a quota circa 500 storie su Topolino ci sei finito piuttosto spesso come autore. Okay. E stai lavorando ancora adesso, quindi come abbiamo detto purtroppo è difficile anticipare, comunque leggendo Topolino piuttosto Topolino settimanale è possibile incappare anche in qualche settimana mia. In qualcosa sì, di nuovo. Sì, ma è qualcosa di mio, è uscito è uscito soltanto un paio di settimane fa. E la prossima non so quando sarà, comunque ci sono delle storie di Indiana che stanno per uscire, è una serie di Amelia. Amelia è una TV, Amelia che conduce un programma televisivo, una serie breve fatta con l'amico Giorgio Ficus, per qualche volta per non annoiarci c'è che facciamo delle storie a quattro mani, come si dice, no? Quindi sì, che si aumenta l'elemento di invenzione, di sì, auto... è vero, poi trovandosi in due le storie poi vengono meglio, anche perché ci si impalla le idee, le idee vengono meglio. Guarda, il tempo è finito, come sempre non è mai abbastanza, però è stato molto, molto divertente chiacchierare con te, Bruno Sarda. Veterano Disney, autore Disney, decidiamo la definizione, maestro Disney, no. Autore Disney che abbiamo il piacere di avere qui a Torino, all'Opera, che non ti sei ancora annoiato di scrivere storie non Disney. Ancora per adesso, okay. Ok, grazie di tutto, ciao a tutti. Ok, e lanciamo l'ultimo pezzo, Cuzzo, Vengo in pace.